La giostra. Era stata una mattinata tranquillissima. Più di una persona, passando per il viale dei ciliegi e gettando uno sguardo attraverso il cancello del numero 17, aveva osservato non il minimo rumore. Che fatto straordinario! Perfino la casa, che di solito non si occupava di nulla, cominciava ad avvertire un senso di allarme. Povera me, povera me! Commentò fra sé, porgendo l'orecchio a quel silenzio assoluto. Speriamo che non sia successo niente. Nella cucina, a pian terreno, la signora Brill, con gli occhiali sulla punta del naso, dormicchiava sul giornale. Al primo piano, la signora Banks e Ellen mettevano in ordine l'armadio della biancheria, di cui man mano riprendevano il conto. Sopra, nella camera dei bambini, Mary Poppins sparecchiava in silenzio i resti della colazione. Come mi sento buona e cara oggi! Diceva Jane con voce sonnacchiosa, sdraiata sul pavimento illuminato dal sole. Un bel cambiamento, commentò Mary Poppins con uno sbuffo. Michael tolse l'ultimo cioccolatino dalla scatola che la zia Flossie gli aveva regalato la settimana prima per il suo sesto compleanno. Doveva offrirlo a Jane? Si domandò perplesso. O forse ai gemelli o a Mary Poppins? Ma no, dopotutto era stato il suo compleanno. L'ultimo! Il fortunato ultimo, disse in fretta e si precipitò a metterselo in bocca. Se ce ne fossero degli altri, aggiunse con rimpianto, occhieggiando la scatola vuota. Tutte le cose buone hanno una fine, sentenziò Mary Poppins. Tu no, rispose arditamente Michael, eppure sei una cosa buona. L'abbozzo di un sorriso soddisfatto apparve appena agli angoli della bocca di lei, per sparire con la stessa rapidità con cui si era accennato. Potrebbe anche succedere, replicò. Non c'è niente che duri in eterno. Jane si guardò attorno sbigottita. Se niente durava per sempre, voleva dire che anche Mary Poppins. Proprio niente? Domandò a disagio. Assolutamente nulla, replicò la governante. E quasi avesse immaginato quello che si agitava nella mente di Jane. Si avviò al caminetto e ne tolse il suo grosso termometro. Prese da sotto il lettino da campo la sua valigia e ve lo gettò dentro. Jane si alzò agitatissima. Mary Poppins, perché fai queste cose? Mary Poppins le rivolse uno sguardo strano. Perché? Rispose con saccenteria. Mi hanno insegnato a essere sempre ordinata. E spinse nuovamente la valigia sotto il letto. Jane sospirò e il cuore le pesava nel petto. Mi sento triste e ansiosa, sussurrò Michael. Avrai mangiato troppo budino di riso. No, non è proprio quel tipo di sensazione, cominciò lei e si interruppe improvvisamente perché si udì bussare alla porta. Tap tap. Avanti, disse Mary Poppins. Apparve Robertson A., sbadigliando. Sapete la novità? Disse con aria ancora addormentata. No, quale? C'è una giostra nel parco. Oh, non è affatto una novità per me, si affrettò a dire Mary Poppins. C'è un parco dei divertimenti? Domandò Michael tutto eccitato. E ci sono anche le ruote panoramiche e il tiro a segno? No, rispose Robertson A., scuotendo solennemente la testa. Solo la giostra è arrivata ieri. Ieri sera ho pensato che vi avrebbe fatto piacere saperlo. Raggiunse la porta con andatura dinoccolata e la richiuse dietro di sé. Jane, dimenticata già la sua ansia, esclamò con impeto: Oh, Mary Poppins, possiamo andare? Andiamo, Mary Poppins, andiamo! La supplicò Michael, saltellandole intorno. Mary Poppins si voltò col vassoio delle tazze e dei piatti. Io ci vado, replicò con calma, perché ho i soldi per il biglietto. Non so voi. Posso rompere il mio salvadanaio? Disse subito Jane. Oh, Jane, prestami i soldi! La implorò Michael, che aveva dissipato tutti i suoi risparmi il giorno prima in un bastone di liquirizia. E tutti e due interrogarono ansiosi con lo sguardo Mary Poppins, in attesa della decisione. Non si fanno prestiti in questa stanza, prego! Sentenziò lei perentoria. Pagherò io a ognuno di voi un giro e dovrete accontentarvi di uno solo. Aggiunse, scivolando via rapida dalla camera con il vassoio. I bambini si guardarono tra loro sbigottiti. Che cosa può essere successo? Domandò Michael. Era il suo turno ora di essere ansioso. Non ci ha mai pagato niente prima di oggi. Ti senti forse poco bene, Mary Poppins? Si affrettò a domandarle non appena la vide rientrare nella stanza. Non sono mai stata meglio in vita mia, replicò lei pronta scuotendo la testa, e vi prego di non starvene lì a contemplarmi, come se fossi una statua del Museo delle Cere. Andate piuttosto a prepararvi, via. Il suo sguardo era misterioso come sempre, gli occhi come sempre azzurri e profondi, e aveva parlato con un tono che era così tipicamente suo che la loro ansia disparve e corsero gridando a mettersi il cappello. La calma della casa fu interrotta dal rumore di porte sbattute, voci assordanti e un violento scalpiccio. Oh, finalmente, che sollievo! Stavo in una tale ansia! Disse allora la casa a se stessa mentre Jane, Michael e i gemelli scendevano a precipizio dalle scale. Mary Poppins sostò un momento a osservare la sua immagine nella specchiera dell'ingresso. Ma vieni, sbrigati, Mary Poppins! Sei perfetta! Esclamò Michael con impazienza. Ella corse a raggiungerli. La sua espressione era arrabbiata, oltraggiata e nello stesso tempo attonita. Perfetta davvero. Ecco, era la definizione esatta. Perfetta nel suo cappotto azzurro dai bottoni d'argento, perfetta con il suo medaglione d'oro intorno al collo e l'ombrello con la testa di pappagallo sotto il braccio. Mary Poppins fece uno sbuffo. Uff! Il limite ormai raggiunto e forse superato, replicò in tono secco, lasciando chiaramente capire che invece vi era ancora di che superarlo. Ma Michael era troppo elettrizzato per badare alla frase. Vieni, Jane! Le gridò impaziente. Non ce la faccio più ad aspettare, vieni! Corsero tutti e due avanti, mentre Mary Poppins assicurava i gemelli alle cinghie della carrozzina. Il cancello si richiuse con violenza dietro di loro che si avviavano verso la giostra. Deboli suoni di musica ondeggiavano nel parco, accompagnati da colpi di tamburo. Buongiorno, come stiamo oggi? La voce acuta della signorina Lark li raggiunse, mentre ella si affrettava lungo il viale con i suoi cani. E prima che avessero avuto il tempo di risponderle, continuò: Andate a vedere la giostra, suppongo. Andrea e Willoughby vi sono appena stati. Un trattenimento davvero eccezionale, così grazioso e distinto, e un bigliettaio tanto garbato. E proseguì il suo cammino con i due cani che le saltellavano al lato. Arrivederci, arrivederci! Salutò con le spalle voltate mentre scompariva all'angolo della via. Mano alle pompe, come va, cuoricini miei? Una nota voce cavernosa giunse dal parco e attraverso i cancelli apparve l'ammiraglio Boom, rosso in volto, che danzava un ballo di marinai. Olà, olà, per tutte le bottiglie di rum! L'ammiraglio è stato sulla giostra. Granchi e aragoste per Bacco, è bella come un lungo viaggio per mare! Esclamò mentre salutava i bambini. Noi ci stiamo andando adesso, disse Michael. Come, ci andate anche voi? L'ammiraglio parve assai sorpreso. Certo, rispose Jane. Non fino in fondo, immagino. L'ammiraglio guardò sorpreso Mary Poppins. Faranno un giro per ciascuno, signore, spiegò lei pronta. Ah, benissimo, benissimo. Addio. Li salutò l'ammiraglio con una voce che per lui era quasi gentile. Poi, con infinita meraviglia dei bambini, si mise sull'attenti, portò la mano alla visiera ed elegantemente salutò Mary Poppins. Strombettò nel fazzoletto. Alzate le vele, levate l'ancora e addio, amore, addio. Alzò ancora la mano in segno di saluto e si allontanò ondeggiando da un lato all'altro della strada, mentre cantava a gola spiegata con voce rombante: Le ragazze aman sempre i marinai. Perché ti ha detto addio e ti ha chiamata amore? Chiese Michael, ancora voltato a seguire con lo sguardo l'ammiraglio mentre camminava a fianco di Mary Poppins. Perché mi ritiene una persona molto rispettabile, scattò lei. Ma un'espressione sognante passò nel suo sguardo. Jane si sentì ancora stringere il cuore da una strana sensazione. Cosa mai potrà accadere? Tornò a domandarsi, piena di ansia. e mise la sua mano in quella di Mary Poppins, che stringeva il manico della carrozzina. Il contatto le diede una sensazione di conforto e di sicurezza. «Sciocca che sono», si disse rassicurata, «non può esservi niente di pericoloso». E sgambettò rapida a lato della carrozzina che traballava verso il parco. Un momento!» esclamò una voce ansante dietro di loro. «Ah!» fece Michael voltandosi. «È la signorina Tartina?» «Non lo è affatto», replicò la signorina Tartina senza respiro. «È la signora Sotto!» E si volse arrossendo al signor Sotto che stava accanto a lei, sorridente e umile. «È uno dei vostri secondi lunedì?» domandò Jane, che però, vedendolo in piedi, pensò subito che non poteva esserlo. «Oh no, ringraziando Iddio, no!» rispose lui in fretta. «Venivamo soltanto per dirvi buongiorno, Mary!» «Grazie, cugino Arturo!» E si strinsero la mano. «Vorrei sapere se eri diretta alla giostra!» «Sì, precisamente, tutti vi siamo diretti!» «Tutti?» Le palpebre del signor Sotto si chiusero in segno di sbigottita sorpresa. «Vi andranno a turno per un giro», precisò Mary Poppins indicando i bambini, mentre un perentorio «State seduti!» veniva intimato ai gemelli che tentavano di alzarsi dai sedili della carrozzina. «Volete dare spettacolo?» «Oh, capisco, e poi scenderanno!» «Bene, arrivederci, Mary, e bon voyage!» Il signor Sotto si levò l'alto cappello in un saluto cerimonioso. «Arrivederci e grazie di essere venuti!» rispose Mary Poppins, salutando graziosamente con un cenno del capo il signore e la signora Sotto. «Che cosa significa bon voyage?» domandò Michele mentre guardava le due figure che si allontanavano, la signora Sotto grassa e riccioluta e il signor Sotto rigido e magro. «Buon viaggio! Ed è una cosa che voi non farete se non vi sbrigate», rispose Mary Poppins con Michael alle calcagna. L'eco della musica giungeva ora più sonoro e deciso. Mary Poppins, quasi di corsa, diresse la carrozzina verso i cancelli del parco, ma una serie di pitture da marciapiede attrasse il suo sguardo e la fece arrestare. «Ma perché si ferma un'altra volta?» bisbigliò Michael a Jane in tono seccato. «In questo modo non arriveremo mai!» L'artista del marciapiede aveva appena completato una serie di frutti con i gessi colorati, una mela, una pera, una prugna e una banana, ed era intento a scrivervi sotto «Prendetene una». Fece Mary Poppins con un colpetto di tosse molto signorile. L'artista del marciapiede balzò in piedi e Jane e Michael si accorsero che era l'uomo dei fiammiferi, il grande amico di Mary Poppins. «Oh, Mary, finalmente ti ho aspettata per tutto il giorno!» L'uomo dei fiammiferi le afferrò le mani e si mise a fissarla con uno sguardo pieno di ammirazione. Mary Poppins aveva un'aria timida, ma nello stesso tempo assai compiaciuta. «Sai, Bert, siamo diretti alla giostra», gli disse poi arrossendo. «Oh, lo immaginavo! Ma vengono anche loro?» domandò indicando con il mignolo i bambini. «Per un giro», replicò lei frettolosamente. «Ah, capisco», disse lui e fece una smorfia con la bocca. «Capisco». Michael spalancò gli occhi. Cos'altro si poteva fare in una giostra se non girare? Si domandò stupito. «Che bei disegni!» esclamò Mary Poppins, guardando ammirata le frutta. «Servitevi», le rispose con magnanimità l'uomo dei fiammiferi. Allora Mary Poppins, con grande meraviglia dei bambini, si chinò, prese una prugna e la addentò. «Ne vuoi una?» domandò l'uomo dei fiammiferi a Jane. Ella lo guardò sbalordita. «Ma è possibile?» Le sembrava assurdo. «Prova!» Jane si chinò verso la mela e la prese in mano. La morse dal lato rosso, era squisita. «Ma come fai?» domandò sbigottito Michael. «Oh, non sono io», spiegò l'uomo dei fiammiferi. «È lei?» E indicò Mary Poppins, rimasta impalata vicino alla carrozzina. «Questo fatto avviene soltanto se lei è presente, vi assicuro». Si chinò a raccogliere la pera dal marciapiede e la porse a Michael. «E per te?» chiese Michael, combattuto tra il desiderio del frutto e quello di essere gentile. «Oh, prendi pure», lo rassicurò l'uomo dei fiammiferi. Io posso sempre dipingerne delle altre. E detto questo, si chinò a cogliere la banana che ben sbucciata divise poi tra i gemelli. Un suono chiaro e melodioso giunse alle loro orecchie. Ora, Bert, dobbiamo veramente andare, disse Mary Poppins in fretta e nascose il nocciolo della prugna nella cinta del parco. Dovete proprio andarvene? Domandò con voce triste l'uomo dei fiammiferi. Ebbene, addio, mia cara, e buona fortuna. Ma lo rivedrai ancora, non è vero? Domandò Michael seguendo Mary Poppins attraverso i cancelli. Forse sì e forse no, rispose lei in tono asciutto. Non è cosa che ti riguarda. Jane si voltò a guardare indietro. L'uomo dei fiammiferi era fermo vicino alla sua scatola di Jessie e seguiva Mary Poppins con lo sguardo. Ma questo è proprio uno strano giorno, disse Jane corrugando la fronte. Mary Poppins la guardò. Cosa trovi di strano? Non so, ma tutti ti dicono addio e ti guardano in modo così curioso. Oh, le parole costano poco, sentenziò Mary Poppins, e un gatto può guardare un re, mi pare. Jane rimase silenziosa e sapeva che era inutile insistere per avere altre spiegazioni da Mary Poppins. Sospirò e, siccome non ne sapeva neanche lei precisamente la causa, cominciò a correre verso la musica, sorpassando Michael e Mary Poppins e la carrozzina. Aspettami, aspettami! Le gridò Michael e cercò di raggiungerla, seguito dalla carrozzina traballante che Mary Poppins spingeva di furia per inseguirli. La giostra era situata su uno spiazzo erboso tra i tigli. Era una giostra nuova, tutta lucida e scintillante, con i cavalli che si impennavano e dondolavano su pali di ottone. Una bandiera a strisce sventolava in alto e ogni angolo era pomposamente decorato con corone dorate, foglie d'argento e uccellini variopinti e stelline. Tutto corrispondeva esattamente alle descrizioni della signorina Lar, che forse le superava. La giostra girava pigramente e si fermò al loro arrivo. Il guardiano del parco vi saltò sopra, agile, tenendosi a uno dei pali di ottone. Avanti, avanti, prendete il biglietto, esclamò con aria di importanza. Ho scelto già il mio cavallo, dichiarò Michael, slanciandosi verso un cavallo azzurro e rosso dal nome Gamba Veloce dipinto su una briglia dorata. Vi si arrampicò svelto, attaccandosi al palo di ottone. Vietato gettare per terra i rifiuti e osservare i regolamenti, gridò il guardiano in tono scherzoso mentre Jane tentava di salire. Io voglio Fulmine, ella gridò arrampicandosi a sua volta su un focoso cavallo che aveva il nome Fulmine scritto su una briglia rossa. Mary Poppins tolse i gemelli dalla carrozzina e mise Barbara davanti a Michael e Giovannino dietro alla sorella. Una corsa da 4 penny, da 6 o da 8? Domandò il bigliettaio intento a raccogliere il denaro. Da 6 penny, rispose Mary Poppins porgendogli il denaro. I bambini rimasero allibiti. Non avevano mai fatto un giro così lungo su una giostra. Vietato gettare i rifiuti! Gridò ancora il guardiano occhieggiando i biglietti in mano a Mary Poppins. Ma tu non vieni? Le domandò Michael. Tenetevi forte, per favore, tenetevi forte. Io monterò al prossimo giro, gli rispose stizzita. Uno sbuffo di fumo uscì dalla ciminiera della giostra. La musica cominciò a suonare e lentamente i cavalli presero a girare. Tenetevi forte, gridò ancora Mary Poppins. Obbedirono. Ora gli alberi si muovevano accanto a loro, i bastoni di ottone scivolavano su e giù attraverso la groppa dei cavalli e uno sprazzo di luce cadde su di loro dai raggi del sole che tramontava. Tenetevi forte! Ingiunse ancora la voce di Mary Poppins. Essi si tennero più saldamente. Ora gli alberi si muovevano più velocemente accanto a loro man mano che la giostra affrettava la sua corsa. Michael strinse il suo braccio intorno alla vita di Barbara. Jane mise la mano dietro per tenere saldamente Giovannino e correvano sempre più veloci, con i capelli e i visi investiti dal vento pungente. Correvano instancabili, Gamba Veloce e Fulmine, con i bambini sulla groppa e il parco che roteava, barcollava e turbinava intorno a loro. Sembrava che quella corsa non dovesse mai finire, che il tempo non avesse più significato, come se il mondo si riducesse a un cerchio luminoso e a un gruppo di cavalli colorati. Il sole tramontò a ponente e l'ombra cominciò ad avvolgerli, ma continuavano a girare forte, sempre più forte, fino a che non riuscirono più a distinguere gli alberi dal cielo e la terra roteava intorno con la velocità di una trottola. Mai più Jane, Michael e Giovannino e Barbara sarebbero stati così vicini al centro della terra come lo erano in quella corsa vorticosa. E in un certo senso ne avvertirono la sensazione. Mai più, mai più, era il grido del loro cuore mentre si tenevano fermi sulla groppa dondolante dei loro destrieri. Poi, man mano, gli alberi cessarono di essere un cerchio verde e i tronchi cominciarono nuovamente a distinguersi. Il cielo non fu più una sola cosa con la terra e il parco, smise di girare. I cavalli rallentarono sempre più la loro corsa fino a che la giostra si fermò del tutto. Ancora una corsa, ancora una corsa! 3 soldi la corsa! Ricominciò il guardiano del parco. Intorpiditi dalla lunga cavalcata, i 4 ragazzi scesero con gli occhi accesi e le voci eccitate. Bello, bello, bello! Gridò Jane con gli occhi sfavillanti, rivolta a Mary Poppins che rimetteva Giovannino nella carrozzina. Se fosse durato per sempre, esclamò Michael aiutando la piccola Barbara a scendere. Mary Poppins li guardò e i suoi occhi erano stranamente dolci e inteneriti nel crepuscolo che stava calando. Tutte le cose buone hanno una fine. Ella sentenziò per la seconda volta e levò il capo a contemplare la giostra. «Ora è il mio turno!» gridò gioiosamente, cercando qualche cosa nella carrozzina. Si irrigidì e rimase un momento a mirarli con quello stranissimo sguardo che sembrava frugare nel più profondo del loro essere e leggere il pensiero. «Michael», disse sfiorandogli una guancia, «sì, buono». Egli la guardò sbigottito e con una invincibile sensazione di disagio. Perché gli aveva fatto quella carezza? Cosa poteva significare? Jane, abbi cura di Michael e dei gemelli, raccomandò ancora Mary Poppins, stringendole la mano sul manubrio della carrozzina. In sella, gridò il bigliettaio. Le luci della giostra si accesero di nuovo. Mary Poppins si voltò. Vengo! Rispose agitando l'ombrello dalla testa di pappagallo e lanciandosi nel cerchio d'ombra tra i ragazzi e la giostra. Mary Poppins! Gridò Jane con la voce tremante perché all'improvviso, senza sapere perché, era stata assalita dalla paura. Mary Poppins! Gridò Michael con la stessa ansia. Ma Mary Poppins sembrò non avvertire il richiamo. Salì agile sulla piattaforma. Arrampicatasi sulla groppa di un cavallo chiamato Caramella, vi si issò eretta e composta. Andate e ritorno? Le domandò il bigliettaio. Per un attimo ella esitò e con lo sguardo fissava i ragazzi, e poi, rivolgendosi di nuovo al bigliettaio, non si sa mai, rispose con aria assorta, può sempre essere utile, datemi anche il ritorno. Il bigliettaio forò un bigliettino verde e lo porse a Mary Poppins, che, come notarono Michael e Jane, non pagò. La musica riprese, dapprima lenta e sommessa, e poi man mano sempre più impetuosa, vivace e fragorosa. E i cavalli, pian piano, cominciarono a girare. Mary Poppins, con lo sguardo fisso davanti a sé, passò vicino ai ragazzi. La testa del pappagallo si ergeva diritta sotto il braccio, le mani guantate erano avvinte al palo d'ottone e davanti, sulla criniera del cavallo, Michael! Gridò Jane stringendogli il braccio. Hai visto? La sua valigia di tappeto! L'aveva nascosta sotto la coperta della carrozzina! Michael restò attonito. Ma allora, credi? Bisbigliò ansioso. Jane assentì. Ma ha al collo il medaglione, la catenina non si è rotta, l'ho visto benissimo. I gemelli cominciarono a spazientirsi, ma né Michael né Jane prestarono loro la minima attenzione, intenti com'erano a seguire ansiosi il luccicante volteggiare dei cavalli. La giostra accelerava man mano la sua corsa e presto i bambini non furono più in grado di riconoscere i cavalli né distinguere gamba veloce da fulmine. Innanzi a loro adesso vi era solo un barbaglio di luce roteante in cui spiccava una figurina scura, nitida e composta, che appariva e scompariva e tornava a riapparire. La musica aumentava di intensità, la giostra accelerava la sua corsa vorticosa e quella forma scura seguitava la sua cavalcata. Ma questa volta, al nuovo apparire di Mary Poppins, qualcosa di scintillante si staccò dal suo collo e, volteggiando, venne a posarsi ai loro piedi. Jane si chinò a raccoglierlo. Era il medaglione d'oro che pendeva dalla catenina spezzata. Allora è vero, allora è vero! Esclamò Michael, scoppiando in lacrime. Aprilo, Jane, aprilo! Con le dita, che le tremavano, Jane fece scattare la chiusura e il medaglione si aprì. La luce della giostra cadde sul vetro ed essi videro i loro ritratti a colori raccolti intorno a una figura, con i capelli scuri e lisci, severi occhi azzurri, guance accese e un naso appuntito come quello di una bambola olandese. Jane, Michael, Giovannino, Barbara e Annabella Banks con Mary Poppins. Lesse Jane nel piccolo margine bianco intorno al ritratto. Ecco quel che c'era scritto, disse desolato Michael, e Jane chiuso il medaglione e lo mise in tasca. Sapeva ormai che non c'erano più speranze. Volsero ancora lo sguardo alla giostra, vertiginosa e abbagliante, che correva sempre più rapida in un frenetico suono assordante. E avvenne una strana cosa. Con un acuto strombettio, l'intera giostra si sollevò dal suolo e, sempre girando vorticosamente, si innalzò sempre più in alto con i suoi cavalli colorati e in testa Caramella con Mary Poppins. Il luminoso cerchio di luce scivolava tra gli alberi, indorando le foglie con la sua luce calda. Se ne va, disse Michael. Oh, Mary Poppins, ritorna, ritorna, gridarono i ragazzi levando le braccia al cielo. Ma il viso di lei era rivolto in alto, guardava serenamente oltre la testa del suo cavallo e non dava il minimo segno di aver udito. Mary Poppins! Fu l'ultimo grido disperato. Nessuna risposta giunse dal cielo. Ora la giostra aveva sorpassato gli alberi e si dirigeva turbinosa verso le stelle, in alto, più in alto ancora. Diveniva man mano più piccola, fino a che la figura di Mary Poppins non fu che un puntino scuro in un cerchio di luce. La giostra seguitò a salire su nel cielo, trascinando Mary Poppins con sé, e alla fine non fu che una piccola forma luminosa, appena più grande, ma in tutto simile a una stella. Michael, con gli occhi luccicanti, cercò il suo fazzoletto. Ho il torcicollo, disse per giustificarsi, ma non appena Jane distolse lo sguardo, si affrettò ad asciugarsi gli occhi. Jane, tuttora assorta a contemplare il piccolo cerchio luminoso, sospirò e si volse ai fratelli. Dobbiamo andare, disse lentamente, ricordandosi che Mary Poppins le aveva raccomandato di prendersi cura di Michael e dei gemelli. Avanti, signori, avanti, 6 soldi la corsa. Il guardiano del parco, che era andato a mettere la paglia nelle ceste, ritornava verso di loro, guardò il piccolo vuoto ove era la giostra e rimase di stucco. Si guardò intorno con la bocca aperta dallo stupore e gli occhi che sembravano uscire dalle orbite. Ma guarda, gridò. Una cosa impossibile! Era qui un attimo fa e ora è sparita! È contro ogni regolamento! Farò agire la legge! Gridò con il pugno chiuso verso il cielo. Non ho mai veduto una cosa simile, neanche quando ero ragazzo! Farò rapporto, lo dirò al sindaco se sarà necessario! In silenzio i bambini si avviarono verso casa. La giostra non aveva lasciato la minima traccia sull'erba, non un'impronta sul suolo. All'infuori del guardiano del parco, rimasto a gesticolare e imprecare, la distesa verde del prato si stendeva deserta. Appena Preso anche il ritorno, disse Michael, seguendo lentamente la carrozzina. Credi che veramente ritornerà? Jane pensò un momento. Forse, se lo desideriamo intensamente, rispose assorta. Già, forse, ripeté Michael, sospirando ancora un poco, e non scambiarono più una parola fino a casa. Cielo! Cielo! Il signor Banks giunse di corsa per il sentiero del giardino e bussò alla porta d'ingresso. Oi! Dove sono gli altri? Gridò facendo tre scalini alla volta. Che cosa è successo? Domandò la signora Banks che gli corse frettolosamente incontro. Oh, la cosa più straordinaria! Rispose lui mentre si avviava di corsa verso la stanza dei bambini. È apparsa una nuova stella! Me l'hanno annunciato per strada! La stella più grande che ci sia. Mi sono fatto prestare il cannocchiale dall'ammiraglio Boom per vederla bene. Venite a vedere anche voi. Corse alla finestra e si mise a esplorare il cielo con il cannocchiale. Sì, confermò agitandosi. C'è una meraviglia, uno splendore, una bellezza, una gemma. Guardate anche voi. Porse il cannocchiale alla moglie. Bambini, esclamò, c'è una nuova stella. Lo so, commentò Michael esitante. Ma non è una vera stella, è... Lo sapevi? E che cos'è allora? Cosa vuoi dire, perbacco? Oh, non farci caso, sta scherzando come al solito, disse la signora Banks. E dov'è questa stella? Ah, eccola, splendida, la più lucente del cielo. Vorrei sapere da dove è venuta. Venite a vedere, ragazzi. Porse loro il cannocchiale e Michael e Jane, guardando a turno attraverso la lente, riuscirono chiaramente a distinguere il cerchio dei cavalli multicolori, i pali di ottone e il punto scuro che incessantemente spariva e riappariva per un attimo al loro sguardo. Guardarono più volte, scambiandosi un'occhiata d'intesa. Sapevano che il piccolo punto scuro era una persona con il cappotto azzurro, dai bottoni d'argento, un rigido cappello di paglia e l'ombrello dalla testa di pappagallo sotto il braccio. Dal cielo era venuta e in cielo era nuovamente salita. Jane e Michael non l'avrebbero raccontato a nessuno perché vi erano cose intorno a Mary Poppins che non si potevano spiegare. Bussarono alla porta. Scusate, signora, disse la signora Brill, eccitata e rossa in volto, ma credo mio dovere avvertirvi che Mary Poppins se n'è andata di nuovo. Andata via? Domandò incredula la signora Banks. Sì, con armi e bagagli, disse la signora Brill trionfante, senza una parola di commiato, come l'ultima volta. E anche il suo lettino da campo e la sua valigia di tappeto sono scomparsi. Non resta neppure l'album di cartoline come ricordo. Niente. Oh cielo, oh cielo! Esclamò la signora Banks. Che noia, che mancanza di riguardo! George, hai sentito? Si rivolse al signor Banks. Mary Poppins è andata via di nuovo! Chi? Che cosa? Mary Poppins? Ma cosa importa? Abbiamo una nuova stella! Una nuova stella non laverà e vestirà di certo i bambini! Rispose seccata la signora Banks. Brillerà attraverso i vetri della loro finestra, le gridò felice il signor Banks. Questo vale più del lavare e del vestire. E tornò al cannocchiale. Non è veramente una meraviglia? Una bellezza? Un incanto? Domandò tornando a guardare la stella. Jane e Michael gli si accostarono e guardarono ancora la stella attraverso i vetri. Era notte. In alto sopra di loro un chiaro punto luminoso seguitava a girare vorticoso nel cielo scuro e racchiudeva il suo segreto per sempre, per sempre, per sempre. Fine, per ora.